mi sto ritagliando degli orari dove posso magari, dove posso uscire, e quindi prima sai, le commissioni, gli impegni di casa, e poi magari sono un po' più libero, dai. Ciao. Lo sapessi che prima è dovere e poi piacere, io al genitore non ce l'ho più, purtroppo. Mi mancano, mi sono mancati, potrei fare forse di più, ma di questo io non pensavo mai che poi a volare il mamma, la fatica. Fatto la mamma, non fare mai più. Avrei fatto mille cose, però queste cose ci sono, purtroppo. Quindi era sito la portata, eccetera, così poi. Però ripeto, mi discrimino, potrei fare qualcosa di più e stare sempre più vicino a lì. E va bene, la vita continua, certo. È una strada che percorriamo tutti quanti prima o poi, siamo solo di passaggio qua, oggi siamo, domani è vita. Ci auguriamo di godercela meglio possibile. Ehi, ehi, sì, molto volentieri, dai, magari un caffettino. Un caffettino prossimamente già ci vuole, dai. E di rigore, come si dice, avanti anche tu. Adesso tocco io. Mia madre, no? Non ce l'ho più, c'ho solo mio padre. Però lui è a casa sua, io a casa mia. E via. Ognuno si ha fatto la sua vita, si ha fatto, perché no. Non c'era più un buon rapporto, non c'era, perché ci sono successe delle cose, quindi ognuno deve fare la sua vita. Comunque io, proprio sei, Antonio l'ho conosciuto così, una domenica mattina al bar di Via Santamaria, sono conosciuto e mi sono capito. Infatti come stavo dicendo ad Alessio, la gente ci vediamo all'improvviso, le cose capitano quando devono capitare, mica lo decidiamo noi, a pace per gli appuntamento, mi hai capito? Sì, già da molto tempo, forse ti sto parlando del, se non mi ricordo male, all'epoca dell'INAPLI, non so se ti ricordi, la scuola di Via Galileo Galilei. Scappa. Ma io altro meno conosco come le ragazzine. Mi sono perfetto a poi quattro partito. Mi ha conosciuto i picchi di me, che c'erano già, i picchi che sono andati dopo. Poi ero mollato, però per un po' di tempo avevo venuto tutto e poi sono rifatto con la casa. Vabbè. Comunque io sono tutto diverso da Fofuglio. E meno male che sia così, ognuno è originale, dai. Guarda, per l'età che ho non li dimostro, perché non vede nessuno. E allora se vedi a me se vedi a me mi piace un pizzino. Ancora la moto. Ferma e Antu. Dimostro che non sa che sono. Antonio Popolo. Ehi, stavo dicendo una cosa, sembravi ancora la moto. No, l'ho venduta, no, lascia aperta, se ho distrutto che c'è la schiena, adesso la moto, basta, finito per me. E basta, mi sono diventato troppo, me la so tutta. Capo, no, sono puro già nel vedere la moto. Ferma, Antu. Purtroppo è ferma, ci sono altri bisogni, altre priorità nella vita e quindi mi fa male vederla così, però la moto è ferma. Infatti adesso devo riuscire a sbalastarmene, perché così è solamente un peso. E come stava dicendo giustamente Tonino, ho avuto la fortuna e la possibilità di fare quell'esperienza, me la sono goduta anche io la moto, lei moto, però adesso insomma i bisogni sono altri, quindi cambiano le priorità e bisogna seguire quello, dai. Appena becco l'occasione giusta cerco di darla a qualche persona affidata che ne faccia buon uso, dai. Che moto c'hai? C'ho un bel Kawasaki, Tony. Un bel Kawasaki 1200 del 2004. è una rivisitazione storica del Z1000 dell'82. E io avevo come già che fatto lo stesso ZRS 154, ho fatto bambini, ho fatto carburatori, il cupolino avanti. Ho capito. Vabbè. È come le belle donne, no? Che le ricordi con piacere. Hai fatto, cioè, passato dei bei momenti, cazzo, sono state delle bellissime avventure, però i tempi cambiano, giustamente, e bisogna pensare ad altro, dai. E io ho fatto molto, molto raduni, ho avuto un sacco di premi, che facevano la festa, poi premiavano, diciamo, un po' i trofei, diciamo. Niente, mi sono divertito veramente, io la moto l'avevo già sempre per il terzo testo, però rispetto a questi problemi non posso soltanto. Questo momento la dico lo stesso, però ormai per questa rispondendo, la moto è bella, però si chiamerà tu, ma non perché io la guida non mi avuto accidente, però visto che sono gli altri che si vengono a posto. Vado a lavorare, ma di aggiro finna, mi ha dato un motore ad uno, poveraccio, questo imbecille, questo francilino è un tipo che andava anche all'estero, è un signor pilota che mi hanno normale con il gruppo, era un po' avanti, questo qua contro mano l'ha preso in pieno, l'ha sbattuto contro il barrai, l'ha preso la gamba di dentro, l'ha fatto il sanguato poveraccio. No, no, guarda, vedo niente, la moto è bella però si avrebbe lì, pensare con molto di vedere queste cose ti lascia il segno, no, non va bene, dai. Ci ho fatto diverse uscite con signor Angelino. Ci trovavamo al bar Via d'Italia, bar Tommaso. Allora ho preso un vecchio Z750 del 1980, ed era di proprietà di Italo Nigra, era il secondo Kawasaki 750 che arrivava a Sassari, rosso granato metallizzato con i filetti oro. L'avevo comprato per 1.200.000 lire. Cazzo, poi da bambino sono sempre rimasto affascinato, perché quando abitavo al centro storico, vicino al mercato, c'era uno che aveva il KH500, quello a due tempi, verde scuro, con la sfumatura gialla, quella miscela, per intenderci. Stavo seduto ore e ore a guardarmi conta giri, conta chilometri, e da lì è partita la folgorazione. Ha detto, appena mi capiteggia una Kawasaki che mi abbiglio, e poi da lì, sai, da cosa nasce cosa. Poi gli ho messo le mani, la seduta giambata, ho fatto dei lavori anche di meccanica particolari, insomma, in quel periodo, ma non perché l'abbia avuta io, ma era il periodo delle custom, delle trasformazioni, ho avuto la fortuna di conoscere degli amici, eravamo una bella cricca, avevamo veramente dei pezzi veramente originali, belli, fatti con buon gusto. Guarda, c'era un amico che aveva un BMW, un R50, sai, con freni a tamburo, il motore, no, diciamo, aveva una macchina a cucire. Poi l'altro c'aveva, cos'era, un... vabbè, mio amico aveva un Harley Davidson 1340, l'altro c'aveva un... cos'era, un Yamaha Virago, tutto canto camuffato, insomma. E quando ci fermavamo nei posti, la gente si fermava a fare le fotografie. Guarda, io si comparlo il mio Kawasaki, ho venduto 4 volte, cioè l'ho avuto 4 volte, l'ho venduto prima la prima volta con un mio collega, e poi due a sua volta dopo me l'ha rivenduto. Io poi l'ho venduto a un'altra persona di diritto, non voglio fare il padrone, che questo per pochi anni che sono cose che pagava al collo, non ha fatto neanche il passaggio, alla fine sono potuto vivere bianco, sono andato le cose, sono beccare di ieri, io gli ho mandato la morte, e non ho detto ma così che dire, mi sono anche la malattia, perché pare che neanche le palle. E poi me l'ho venduta un altro sempre di diritto, che da lente, però per la misura di due forse non mi e dopo avevo fatto il passaggio per quanto che riferisce un po' per non regalare più quello che si è passato e più ora sono contento di aver avuto una persona a cui non diciamo in partita come questo qua una persona abbastanza grande età che ha lavorato per il comune grazie a Dio è venuta l'opera approvata mi è piaciuta, era per la voce solo chiamata la caparra che è da mente e poi speriamo che sia contento che andiamo avanti così bene. Però da una parte sì, mi è dispiaciuto perché io ho fatto attenzione alla morte, però è giusto che sia andata così, perché con i problemi in schiena, guarda, non si basta, io mi sono avuto quello che mi è piaciuto nella vita, e mi sono fatto anche qualche giorno, questa è la mia vita, è molto più. Allora, Antonio, e tu invece, che cosa hai chiesto? No, faccio la bicicletta elettrica io. Non posso guidare. Sono profeti. Antonio ci vuole mettere la vita la bicicletta. Sono io, ya. Ehi, e adesso va quello, dai. Praticità innanzitutto, no? Ti ripeto, per causa di forza maggiore ho dovuto alzare bandiera bianca. Però adesso diciamo che a livello economico certe cose non sono più sostenibili, dai. Cioè io mi ricordo cambiavo un treno di gomme e tra gomme e montaggio partivano 350 euro, poi cambiavi un set di candele ed erano altri 80 euro, perché dovevi mettere candele buone, giustamente, l'olio e il filtro idem come sopra, non potevi mettere Sirriaga, dovevi mettere olio serio e quindi sai, giustamente per tenere il mese in ordine, in buone condizioni, dovevi mettere giustamente roba buona e per quel poco che guadagnavo, insomma, quando capitava il tagliando, soprattutto quello dei 12.000, che poi c'era quello di 6.000 che era quello intermedio, facevi le cose. Però, sai, secondo la legge di Murphy, se deve capitare qualcosa, capita e basta. Quando usciva tagliando grosso, dovevi fare anche le pastiglie di freni e dovevi fare anche altri lavori di manutenzione. E cazzo, guardavi la bolla, cioè la fattura, la ricevuta, e ti c'era un gonto. E lì, meno male che poi, sai, dove la portavo mi conoscevano da un po' e quindi erano anche insomma gentili da quel punto di vista e mi potevo permettere anche di pagare il conto anche in due volte, dai. Oggi come oggi insomma sarebbe insostenibile gestire una cosa del genere, anche perché come tu sai i ricambi delle moto, insomma le parti delle moto hanno costi completamente differenti a quelle delle automobili. Sì, lo so, ho avuto le moto, sì. Quello che vuol dire manutenzione, io ho messo anche la Leo Vizio, l'ho fatto per 150 euro a pagare. Vabbè, io Antonio, proprio non ne ho qualche difetto, a parte per lo stipendio ho anche una pensione di invalidità, quindi sono molto bene, con il sistema. Niente, a me so che la verità, a me piace, che è la verità, per esempio, tre volte maggiore, perché è arrivato pure a 70 problemi che c'hai, non ti permette più di andare in posto, anche se mi piacerebbe a continuare ad andare in posto, ma a un certo punto poter ragionare e dire, oh, boh, basta, ti è arrivato, dopo, anche se ti la vita. A proposito di bicicletta, batteria, oppure questi manofattini che vedo, a parte i manofattini elettrici che staccano già, perché di solito uno ogni momento, quando passa un chilometro, questi qua che camminano sulla pista ciclabile ci camminano sulla strada. Le persone che fanno ginnastica e camminano, chissà perché, su marciapiede che l'hanno costruito, tutto quanto, non ci cammino, cammino sulla strada, non capisco. Allora c'è capacità. Tanto di più, tutto l'ha frenato, l'ho trovato, ma che cacchio si è messo? Ma perché non cammino la sopra? Questa domanda, questa gente è così imbranata, ma non so se cos'è migliore. E se non capisci una cosa. C'è gente che vuole affidare strada quando lo vedi così sulla strada a camminare. Ora il padrone viene sanzionato, viene. Se la ciappano, se la bizzingheggiano i burroetti. Sì, ma tu, io dico questo, l'hanno fatto la sola pista ciclabile, che manco l'asfalto che c'è dove è tutta bucchia, per carità. È così perfetta, non parliamo più dell'Italia, che hanno fatto questa pista che proprio è venuto. E poi vedi questi extracomunitari in bicicletta sulla strada, ma non c'è niente. Ma guarda. Che faccio passo? Che avanti? Ehi K, saluto un Eugenio, buonasera. Ciao Eugenio, buonasera, anzi buonanotte. E me, in compagnia di Antonio e Tonino Kawasaki. Stavo giusto ricordando, faccio un paio di passaggi e poi vado anch'io in corretti. E allora, tutto bene? Oh, non lo so, magari Tonino, avanti Tonino per Eugenio di Napolo Torres. Ma io non lo sento, questo non è solo negativa, sento correre e basta. Pio Pio da lontano si capisce che chi è quello che sta dicendo. Lo saluto, ma ripeto, non lo sento. Eia, sì, Uge, Tonino Kawasaki della zona di San Camillo, dai, anche lui ti sente più pio e niente, dai, no, non riuscite a copiarvi, comunque dai, porgo i saluti da parte di entrambi, a tutti e due, faccio da emissario, dai, e niente, dai, adesso che c'ho il microfono, io, dai, vi saluto, vado a sbucciarmi un filmettino, e niente, dai. Grazie al QSO, salutoni Eugenio, dai, ci sentiamo un altro momento. Salutoni a Tonino e ad Antonio per un prossimo caffè, dai. Ok, ragazzi, QRT esecutivo a parte mia. Un abbraccio e a Sibiri, ok? Ciao, ok, vabbè, dai, ti saluto per te. Ci sentiamo alle prossime. Ok, anch'io chiudo perché ripeto, devo guardare anche un po' più in mezzo, dai. Ok, ciao Antonio, stammi bene, lo fuori, quando lo farai, e buon proseguo, ciao ciao. Ehi capo, ciao Antoni, ci sentiamo pure io chiudo perché sono un bel stanco, sono. Ora, no, già sta procedendo bene, c'è lo strumento attaccato. Capo dai, salutoni anche a te Eugenio, dai, ci sentiamo le prossime, ti saluta anche Tonino, dai, anche se non riuscite a sentirvi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.